Oh, vieni un po' qua, te. Quello che fumava, questo qua. Ok. Fumar puede matar. È vero, è vero. Vedi un po' che devi far. M2O. No. M2O. M2O. Bravo. Poi basta? Sì, sì. Cammino di Gigi D'Agostino. La differenza la fa chi balla. Chi balla. Chi non si muove è una palla. Balla. Chi non si muove è una palla. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Non si può giocare. Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Ogni giorno ci gira intorno, torno, torno, torno, torno, torno, torno. Dai un po', dai un po', dai un po'. That tempo, oh, oh, oh. That tempo, oh, oh, oh. In mezzo all'universo c'è un uomo assai diverso, e perso. Luigi G. Luigi G. Luigi G. Gigi D'Agostino. Luigi G. Gigi D'Agostino. E questo è il suo cammino. Luigi G. Gigi D'Agostino. Luigi G. Gigi D'Agostino. Luigi G. Stai zitto un pochino. Dove è andato il Gigi D'Agostino? Dove è andato? Gigi? Eh? Ha coso. È il mio momento. Sì, dai, dai, dai. È il mio momento. Dai. È il mio momento. Vai. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Mi leggo una citazione. Ecco, questa è forte, molto, molto forte. Le persone stupide, specialmente quelle rese tali dall'educazione, sono piene di opinioni e non ne comprendono una. Oscar Wilde. Like a river that goes to the sea. This is the way that it has to be. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Ogni giorno, ore 18. I drive around all day long, I listen to radio songs, I'm taking what you become.

Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Sabato 28 ottobre, Disco Fire and Ice, Solden, Austria. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Che pesta. Alla faccia di chi ci vuole male. Dove è andata Elena Tanz? Ops. Oh. Ops. Vai un po' con l'info. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello la notte di Halloween. Mi sono venuti i brividi. Martedì 31 ottobre. Sì, sì. Meeting Center Iragna. Presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. Mi sono spaventato da solo. Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino, musica che unisce. Gigi D'Agostino, musica, musica. Gigi D'Agostino, musica che unisce. Ma che sentieri percorriamo tutti insieme, ogni giorno alle 18. Che mondo è, che storia è. M2O. Frequenza. Benevolenza. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. 333-64-67-662. Molta gente mi ha scritto Agosto. Io non li sopporto quelli che cominciano le frasi e poi non le finiscono. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Interessa se il mondo corre. Noi procediamo pensando. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Si vola a tempo. Cammino di Gigi D'Agostino. Guarda il cammino di Gigi D'Agostino. Il gattino. D'Agostino, se può ti informa durante il cammino. Per maggiori informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Capito qua?

Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. È vero, è vero. Saluta! Tanto, tanto!